collego alla cena di ieri, la serata di Radio Città Fujiko per gli auguri di Natale. Scrivono: grande Willy, ieri sera eri in formissima, con quel che ho mangiato oggi sono in forma, sì, tonda. Intanto io ti ringrazio tantissimo, anche perché l'orario, siccome è stato abbastanza esteso per le mie quotidianità, di solito alle 9:15 sto già dormendo, ieri invece giustamente mi sono trattenuto un pochettino. Ringrazio l'ascoltatrice o l'ascoltatore presente a questa nostra cena emotivo d'incontro sui 103.1 e torniamo sul palcoscenico, seppur un po' particolare in questo caso, però la passione, la competenza, il lavoro di Ilaria, che già abbiamo conosciuto e già ho presentato prima dello stacco pubblicitario, ora ogni promessa è debito, è qua in diretta con noi. Buongiorno Ilaria! Buongiorno Willy, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori. Siamo che bello! Pronti? Bellissimo, siamo pronti essere qui. Abbiamo parlato con Andrea Santonastaso di aggettivi, quindi oggi possiamo esagerare e accendiamo le nostre orecchie. Turn on your ears è il titolo di questo progetto a Bologna, la terza edizione del progetto di Altre Velocità, dedicata al radiodramma e al podcast di finzione. Hai mantenuto la passione anche per la radio, Ilaria. Ho mantenuto la passione per la radio, questo grazie a Radio Città Fujiko, grazie a te Willy, assolutamente, cioè parte tutto da qui. Bene. Qui devo dire. e sì, con Altre Velocità, come hai ben detto, stiamo portando avanti questo progetto Turn On Your Ears ormai da 3 anni, è iniziato in un periodo che è stato il periodo quello della pandemia 2020, quando il teatro in qualche modo aveva la necessità di trovare altri spazi, altri contesti in cui poter continuare a esistere, ed è si è in qualche modo riavvicinato a quella che è una sua forma originaria, che è quella dell'ascolto, e in questo caso ha un medium un po' diverso da quello che è stata la radio nel momento della sua nascita, bensì il medium podcast, e da lì abbiamo provato a capire quali erano le continuità, le discontinuità con una tradizione che è quella del radiodramma, e ci siamo anche poi chiaramente spostati dal teatro alla narrazione finzionale. Quest'anno ci ritorniamo con questo progetto Dialoghi Ascolti Attorno all'Audio Fiction, perché è una delle azioni di Turn On Your Ears ed è un appuntamento pubblico nato dal desiderio, insomma, di incontrarci tra studiosi, esperti, ma anche artisti, e dialogare insieme su questo tema di radiodrammi contemporanei e podcast di finzione, con uno sguardo sia italiano che internazionale, e quest'anno l'abbiamo ingrandito sempre di più, nel senso che è sempre stato di una giornata, invece quest'anno si struttura in due giornate da questa sera, da venerdì 15 dicembre, a tutta l'intera giornata del 16, con appunto appuntamenti a ingresso gratuito. Ci saranno delle sessioni di performance sonore in cui dialogheremo con gli artisti e ascolteremo dei loro lavori, e invece la giornata del 16 è più dedicata allo studio, e quindi a un approfondimento con una serie di panel e esperti, insomma, di media, di radiofonia, come Tiziano Bonini, Andrea Bornino di Rai Play Sound. Abbiamo delle produttrici e curatrici, Ilaria Gaudens e Carola Out di Radio Papesse, la giovane realtà di Radio Immaginaria, e questo ospite speciale internazionale che è docente, ricercatore e produttore inglese, Lance Dunn, che è stato anche recentemente pubblicato da Minimum Fax in questa traduzione italiana di podcast Comunità Narrazioni Sonore. Ho letto dei nomi, infatti, molto così, che danno richiamo e grande capacità di espressione. Ho letto Oscar di Summa, ho letto Sblocco 5. Esattamente. Sto vedendo un parterre de roi, permettimi il termine, oltre che i contenuti di ispirazione per trasformare tutto ciò in narrazione. Qualcosa di... Avete fatto le cose in grande, ecco, mi permetto di quest'anno. Dire. Sì, beh, esatto. Quest'anno assolutamente sì, abbiamo fatto queste cose, le cose in grande, perché sì, siamo partiamo dal teatro, come hai ben detto, perché appunto nomi come Oscar de Summa, Stocco, il collettivo Al Mare, che è un po' trasversale, ma comunque lavora tra teatro, suono, arti visive, il teatro e servizi disobbedienti, e poi abbiamo i Muti Mago e la Casa d'Argilla, quindi tantissimi ospiti per partire dal teatro e andare oltre e parlare anche di narrazione sonora un po' tout court. E quindi sì, ne abbiamo fatte in grande. Anzi, vi faccio i miei complimenti. Ogni volta che vi è un tuo progetto, a parte che ultimamente ti ho trovato super attiva nei comunicati stampa sul teatro, spiccava sempre il tuo nome, per cui e chiedevo al protagonista intervistato: è Ilaria di Radio Città Fujiko? Certo, è lei. Ho detto: accidenti, è veramente onnipresente in questa stagione, e infatti ne sono ben contento per il tuo ottimo lavoro, la tua passione, competenza. E quando si comincia e come si comincia, Ilaria? Intanto ricordo che l'ingresso è gratuito, per quanto esatto, grazie di averlo ricordato. L'ingresso è gratuito e si comincia questa sera alle 18 presso la sede di Sblocco 5, che ringraziamo le ragazze di questa ospitalità, di questa collaborazione, nella sede di Sblocco 5 in via Guido Zucchini 11/A. Iniziamo con un'inaugurazione, e poi a seguire, a partire dalle 18:45, ci sarà una lecture del collettivo torinese Al Mare, che ci racconterà che cosa significa sonic fiction. È un termine, è un concetto molto, molto complesso, ma si partirà da Cronache di vita di Dorotea Aiesi, che è un loro audio racconto, e da lì insomma esploreremo questo concetto. Poi alle ore 20 abbiamo Oscar Summa che ci propone qualche capitolo dalla Sorella di Gesù Cristo, un spettacolo, che cercheremo di ragionare però come ha lavorato attraverso la voce e il suono. E alle 21 Sblocco 5 ci propone Pupilla, una riscrittura del capolavoro di Casa di Bambola, che è un ascolto immersivo registrato in audio binaurale, che probabilmente avete anche presentato, perché è capolavoro stato assoluto portato di Ibsen, tra l'altro. Esatto. È qualcosa di trovarlo interpretato in questo modo, indubbiamente è motivo ulteriore di interesse e curiosità. Puoi stare altri due minuti, ascoltiamo un po' di musica. Assolutamente. E dopo ti lascio con piacere ai tuoi impegni quotidiani, che sicuramente saranno densi anche per te. A tra poco. A tra poco. Preciso, ringraziando Lino al 333-180-9494. Buongiorno William, hai fatto avanti e indietro anche oggi con questa nebbia? No, a breve, dopo la diretta di Jazz Live parto, poi rientrerò lunedì mattina. Mi auguro che a metà mattinata, insomma verso le 13, non ci siano problemi verso il Polesine per quanto riguarda la nebbia. Anzi, tra l'altro, oggi mi pare una giornata serena. Ti auguro una buona giornata, Lino. Martino, ti ringrazio per i saluti, ricordando che dietro la nebbia, fenomeno tanto misterioso quanto secondo me affascinante, vi è sempre uno splendido sole, e infatti oggi c'è il sole. Amico di Radio Città Fujiko, è Sabat che saluto, non ho citato il tuo nome prima, mi hai trovato in formissima, aggiungo oltre che lunga anche molto tonda per la cena di Radio Città Fujiko, grande qualità enogastronomica, quindi ti ringrazio, sono riuscito nella cronologia dei messaggi a trovare anche il tuo nome e giustamente l'ho portato in diretta, grazie, un caloroso abbraccio e una buona giornata Sabat. Sentito Ilaria, quanti amici mattinieri che abbiamo. Hai tantissimi amici mattinieri, ma è bellissimo. Sono molto molto soddisfatto, sì. Allora, intanto però abbiamo, oltre che il contributo che hai portato per la rubrica In Scena, di cui ti sarò sempre grato, un percorso poi tuo personale per arrivare a questa terza edizione da altre velocità, Turn on your ears, accendete le vostre orecchie. Collaborazioni, Ilaria. Collaborazioni con Sblocco 5 che insomma continuiamo da ormai qualche anno e siamo veramente molto contente di questo, di questa continuità. Una grossa mano se lo sta dando anche Cantieri Meticci, che ci sta aiutando anche con le questioni di allestimento. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero della Cultura. Bene, a questo punto direi che l'appuntamento è nell'immediato, è per questa sera, l'ingresso è gratuito, dove, come, a che ora, e poi ci congediamo a te Ilaria. Cominciamo questa sera alle ore 18 al Sblocco 5 via Guido Zucchini 11/A, poi proseguiremo sabato 16 al Centro Costa in Viazzo Gardino 44 con una giornata di studi, proseguiamo con una passeggiata sonora di La Casa d'Argilla Città Sola alle ore 17 per concludere di nuovo da Sblocco 5 con altre ultime due performance sonore. Grazie e buona giornata. Grazie. Anche a voi, a tutti. Ciao. Un abbraccione, ciao, grazie. Ciao, ciao Ilaria.